Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Si calcola che solo negli Stati Uniti su 7 miliardi di uova prodotte ogni anno, circa 200 milioni, più o meno il 3%, vengano respinte per qualche ragione dalla filiera e non arrivino sul mercato finendo in discarica. Ebbene, ricercatori della Brown School of Engineering presso la Rice University a Houston hanno pensato di utilizzare queste uova per realizzare degli innovativi rivestimenti destinati alla protezione degli alimenti. Rivestimenti che evidentemente andrebbero a sostituire, per esempio, le pellicole di plastica che tutti noi conosciamo bene. Questa idea è stata descritta in uno studio pubblicato su Advanced Materials, dove si parla di questo rivestimento multifunzionale che ritarda la disidratazione, fornisce una protezione antimicrobica e per di più è un rivestimento commestibile. Per parlarne andiamo al CNST, il Center for Nanoscience and Technology dell'IIT di Milano, dove troviamo Mario Caironi, che è coordinatore del laboratorio Printed and Molecular Electronics. Buonasera Caironi, bentornato a Smart City. Buonasera, grazie mille, buonasera. Allora Caironi, per prima cosa vorrei capire di che cosa esattamente è fatta questa pellicola messa a punto a Houston e come viene applicata. Allora, la pellicola viene fatta, diciamo, mischiando alcuni elementi naturali del cibo, soprattutto la grossa provenienza è proprio dall'uovo, sono proteine presenti nell'albume, come l'albumina, che permettono di realizzare una sorta di film nel momento in cui vengono denaturate. La denaturazione è un processo a cui tutti siamo abituati, perché è quanto facciamo quando andiamo a cuocere un uovo nella padella. Sarà capitato a tutti di fare un uovo al tegamino e si vede che il bianco forma una pellicola, in qualche caso anche molto resistente, no? Esatto, esatto. Questo è l'elemento principale che hanno sfruttato. Dopodiché, per fornire le proprietà meccaniche necessarie per un coating, per una pellicola protettiva e le altre funzioni che lei ha già richiamato, hanno via via aggiunto degli ingredienti di fatto che hanno funzioni diverse. Hanno aggiunto dei plasticizzanti che servono a conferire proprietà meccaniche migliori, come il glicerolo. Ecco, sempre cose che si possono mangiare, perché sennò uno si spaventa a sentire plasticizzanti. Esatto, però anche ho usato la parola ingredienti proprio per suggerire che certo, in realtà hanno usato via via elementi che noi già ingeriamo, già mangiamo. È stato usato una parte anche del tuorlo, che ha altre proprietà rispetto all'albume. In questo caso hanno sfruttato la presenza di acidi grassi per dare una proprietà più idrofobica. Hanno poi utilizzato per esempio la curcuma come ulteriore additivo per dare le proprietà antimicrobiche che lei ha richiamato. E questo insieme di materiali è stato studiato, la composizione fine di questi materiali, per ottenere una pellicola resistente nel tempo che è capace di essere poi lavata dalla frutta una volta prima di consumarla. Ecco, perché parliamo fondamentalmente della conservazione della frutta e quello che viene fatto è un bagno. Immaginiamo una mela, anzi questa è proprio l'immagine presente nella ricerca, una mela che viene intinta in questo miscuglio di cui lei ci ha parlato, che poi evidentemente si secca e produce questa pellicola resistente. Sì, questo è uno dei metodi previsti. Hanno anche studiato la composizione di questo composito in modo tale da renderlo compatibile con altre tecniche, per esempio quello dello spraying, che permetterebbe quindi una ricopertura con uno spray dell'oggetto finale. Sì. Sugli alimenti quali sono gli effetti di questo tipo di protezione? Sì, di fatto quello che hanno potuto verificare prima attraverso prove qualitative, diciamo che sono però molto significative perché sono qualcosa di cui abbiamo esperienza, mostrano che per esempio nel caso della banana o dell'avocado, che sono due dei casi, si vede un ovvio ritardo della maturazione da un lato e poi della degradazione, quindi dell'effetto della pelle che diventa scura, che mostra quindi la degradazione del frutto. Si viene, questo effetto è ritardato anche di una settimana. Questo è legato ad alcune proprietà della pellicola, da un lato quella di trattenere acqua e quindi umidità all'interno del frutto, di mantenerne quindi poi anche le proprietà strutturali, di mantenerne una rigidità meccanica, diciamo la frutta quando invecchia diventa più molle, di ridurre la respirazione, viene detto, cioè il passaggio di ossigeno, quindi al contrario l'acqua viene trattenuta, l'ossigeno viene mantenuto al di fuori, e queste sono le varie proprietà che permettono poi di mantenere più a lungo la frutta in condizioni di essere consumata e con le proprietà organolettiche a cui siamo abituati. Senta, 200 milioni di uova possono sembrare tante, ma probabilmente sarebbero sufficienti a produrre pellicole solo per una frazione minima degli alimenti che normalmente vengono imballati o protetti in questo modo. Ecco, c'è un rischio di creare conflitto con la filiera alimentare, qualcosa che abbiamo già visto nel settore dell'energia? Questo è un tema di attenzione. La prospettiva che secondo me è più ovvia è che se questa tecnologia avrà un futuro, quindi sarà scalata, diciamo, su tutta la produzione mondiale, non ci sarà solo l'uovo come elemento che deve rifornire questi volumi, non è pensabile. Però nel lavoro sono presenti quegli aspetti fondamentali che potrebbero permetterci di avere altre pellicole protettive fatte con altre ricette, insomma. Forse la risposta che mi ha appena dato vale anche per la prossima domanda, che riguarda invece il tema delle intolleranze. Io ho una mela, la mela me la posso mangiare, ci metto sopra una pellicola a base di uovo, se sono intollerante all'uovo diventa un problema. Sì, questo è sicuramente un altro tema. Sottolineo che la pellicola qui studiata e presentata è fatta per essere lavata. Viene mostrato che con acqua e frizione meccanica questa viene facilmente rimossa. Il fatto che venga fatta poi con alimenti ci garantisce che anche tracce di questa pellicola non siano tossiche. Certo, tracce di qualcosa che invece possa provocare una reazione allergica sono comunque pericolose e andranno studiate in futuro. Non è, diciamo, questo secondo me è una seconda fase di studio. Grazie Mario Caironi. Grazie mille. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.